Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a tutti da Francesco Galante e saluto anche il presidente Carlo Garofolini che è al telefono con noi. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi con te Carlo parliamo di una vicenda che era venuta fuori già la settimana scorsa nei giornali del Padovano per quanto riguarda una gelateria, diciamo pure anche di dov'è, di Busa di Vigonza, che è in provincia di Padova, che si è rivolta proprio a voi per farsi tutelare in quanto loro avevano un contratto con la corrente elettrica, con insomma il gestore nazionale, diciamo così, e l'hanno cambiato. Nel cambio gli è arrivata una bolletta con i famosi conguagli, che a volte, anzi spesso, capita che siano, come dire, sbagliati, e la richiesta di pagare 20.000 euro nell'arco di 10 giorni. Sì, come hai detto, una vicenda che è stata affrontata qualche giorno fa e che sta avendo i suoi sviluppi in queste ore, ma che certamente ha il sapore un po' di vendetta da parte del gestore. Utilizzo vendetta solo per il modo con cui si è articolata, perché in questo caso la gelateria, ricordiamo, aveva pagato sempre delle bollette regolarmente di circa 250 euro nel periodo 2014-2015, la quale un bel giorno, per rivolgersi a un'offerta migliore, quindi pagare meno a un gestore rispetto a quello che aveva, si è trovata poco tempo dopo a ricevere un conguaglio da 20.000 euro per effetto di un ricalcolo di quelli che sono stati i consumi e i pagamenti che hanno effettuato nel periodo appunto 2014-2015, come detto. Una vicenda di cui chiaramente la gelateria non è in grado di poter pagare, e di cui il gestore ha intimato il pagamento entro pochi giorni, 10 giorni circa, da ricevimento del comandato, di cui poi insomma aveva concesso la possibilità di 12 rateizzazioni. Chiaramente tutte soluzioni che insomma non hanno certamente aiutato la gelateria a venire a capo a questa annosa vicenda. Io immagino insomma se per due anni paghi circa 250 euro ogni bimestre e poi te ne chiedono 20.000 tutti insieme, cioè dico c'è qualcosa che non quadra. Qualcosa che non quadra è veramente, non sono neanche richieste a detta nostra tanto legittime, in quanto purtroppo, anche se il meccanismo permette al gestore di ricalcolare, perché oggi sappiamo che noi come Adico stiamo portando avanti in tutte le occasioni, come anche sempre fatto con te, le nostre dimostranze sul fatto che c'è una legge che permette al gestore di poter ricalcolare i consumi per un indietro di 5 anni, oggi non è pensabile che con i contatori elettrici di cui si teletrasmettono la vettura si possa ancora parlare di questi conguagli a pregare. Certamente la gelateria si è rivolta subito all'Adico, in queste ore stiamo avendo un po' gli sviluppi di questa vicenda, innanzitutto da 12 rate si è passato alla possibilità di realizzare 24, ma noi siamo ancora fermi nella nostra posizione, perché stiamo rivedendo quelli che sono un po' tutti i calcoli e i passaggi che hanno determinato questa cifra, perché poi anche questa cifra, come detto, deve essere verificata se attendibile o meno. Certamente una cifra importante di cui non troviamo giusto che venga rivolta in questo modo, in questi toni, soprattutto a un cliente che ha sempre pagato regolarmente le sue bollette e che si è visto come unica colpa quella di migrare su un altro gestore, e di cui appunto qualche giornale ha voluto un po' definire la vendetta per questo atteggiamento che insomma sì, è stato poco consono. No Carlo, perché facendo un po' i conti della serva, no? Se in due anni venivano chiesti 250 euro al bimestre e dopo alla fine ti chiedono 20.000 euro sempre perché hanno sbagliato i calcoli, vuol dire che il consumo di questa gelateria era di 1.666 euro più i 250 che già pagavano ad ogni bimestre, come si fa a chiedere quasi 5 volte tanto, insomma, rispetto a quello che mi sembra che gli errori siano particolarmente grossi? Sì, adesso bisogna capire veramente quanto grande è questa gelateria e quanto normalmente una gelateria per bontà sua dovrebbe pagare su quella che può essere un'idea imprenditoriale che una persona può avere agli albori della sua attività. Certo è che chi non si pone questo problema e addirittura si è trovato a rivolgersi a un altro fornitore perché riteneva 250 euro troppo costosi e magari ha trovato un'offerta più vantaggiosa, trovarsi a pagare adesso questa batosta qua, uno veramente rischia di dover chiudere la propria attività rispetto a chi magari in questo momento di crisi e di difficoltà economica vuole invece cercare di fare qualcosa. Certamente una vicenda che è andata alla ribalta della cronaca proprio per il modo con cui si è sviluppata e gli importi che sono stati richiesti, ma di cui noi comunque la contestiamo tutta, ma soprattutto non riteniamo, prescindere che la legge lo permetta di fare cosa, fatto di denunciare come di fronte a un contattore elettronici che sono in grado di teletrasmettere la lettura in ogni istante, oggi possiamo stare qui a parlare ancora di conguagli. Dico, troppo comodo poterti promettere di pagare 100 euro al mese, ma dato un conguaglio da 20.000 euro o da 30.000 o da 10.000 dopo un anno. Non è questa secondo noi la strada più giusta e corretta per procacciare clienti e promettere, insomma, di pagare tariffe inferiori rispetto a un altro fornitore. Ed è insomma una dura battaglia, l'Adico comunque combatterà in questo e ve ne daremo notizia. Ringraziamo l'Adico con la voce di Carlo Garofolini, il presidente, ricordando che c'è il sito che potete andare a visitare tranquillamente per chiedere aiuto, insomma, e informazioni, che è associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Carlo e alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.